Dunque, buongiorno a tutti, buona domenica da Luigi Salerno. Penso che ci sia ancora il necessario silenzio per riuscire a fare una piccola sintesi di questo mio percorso. Dunque, partiamo dal lavoro di vacanza di lago. Per chi mi sta seguendo, siamo giunti al capitolo settimo. Sto cercando di proseguire lavorando anche sull'editing dei file audio. Quando porto il romanzo nei file MP3, cerco sempre di sintetizzare, quindi di ritoccare tutti quelli che sono stati gli eccessi descrittivi, gli eccessivi manierismi di cui è impastata la storia. Forse il lavoro è quello dove maggiormente sono risaltati i difetti di grande ridondanza, che ho cercato però di utilizzare anche per vedere cosa stilisticamente possa esserci di buono e possa essere salvato. Quindi questa verifica audio è stata importante perché mi ha consentito di lavorare una nuova fase più matura e elaborata di revisione. Mi auguro che continuate a seguire le vicende di Martin Meniere. Siamo giunti al colloquio con il fatidico maestro Flashing, dove si incominciano a snodare questi paesaggi nebbiosi della mente della ragazza. Per chi continuerà a seguire potrà valutare anche lo sviluppo della storia con maggiore profondità, perché incomincia adesso, con il ritorno della ragazza a casa, a spianarsi questo improvviso contrasto fra la decisione dell'abbandono del violino e la volontà dei familiari. E questo contrasto porterà fuori dei vecchi fantasmi che, seguendo, avrete modo di conoscere. Un paio di flash abbastanza interessanti. Il primo riguarda l'edizione Libriamo 2009 del concorso letterario che ho vinto con mia grande soddisfazione. Giusto la settimana scorsa ho ricevuto le mail e siamo stati in quattro. Esattamente, la giuria del premio avrebbe decretato il vaso di Ilaria Parutto, primo classificato, a seguire Luigi Salerno con la canzone Vetture e Veicoli, il sottoscritto, e terzo ex aequo Giorgio Pirazzini con Viaggi senza mini di Lugo. È Christmas Time di Flavio Orciani di Vicenza. Voglio, avendolo davanti, leggere questo articolo sulla premiazione, sulla manifestazione di Laura Vicenzi. I vincitori del concorso letterario nazionale Libriamo 2009, venerdì 20 novembre alle ore 21 a Vicenza, la premiazione dei racconti inediti ispirati ai sillabari. Infatti è importante perché questa sfida nasceva come continuazione ideale delle lettere non utilizzate da Goffredo Parisi. Quindi i partecipanti dovevano utilizzare come tema del loro lavoro le lettere che erano rimaste fuori dal percorso letterario di Parisi. Infatti, una sfida a cimentarsi per completare i sillabari di Goffredo Parise. Era questo l'obiettivo posto dal concorso letterario nazionale per racconti brevi inediti, indetto per il secondo anno dal Festival della Letteratura Libriamo, un omaggio dedicato alla figura e all'opera del grande giornalista e scrittore vicentino negli 80 anni dalla sua nascita. Al bando lanciato la scorsa estate hanno aderito più di 200 autori. I racconti provengono da tutta Italia. La giuria del premio alla fine ha decretato la lista dei vincitori. Primo classificato il vaso di Ilaria Parutto, Rivignano, Udine. Secondo la canzone Vetture e Veicoli di Luigi Salerno, Napoli. Terzi ex aequo Viaggi senza mini di Giorgio Pirazzini, Lugo e Christmas Time di Flavio Orciani, Vicenza. La programmazione avverrà venerdì 20 novembre alle 21 nella sala conferenze dei chiostri di Santa Corona a Vicenza. Chiaramente l'articolo era precedente. L'appuntamento sarà condotto dal critico letterario Marco Cavalli, direttore artistico di Libriamo, e i testi vincitori saranno letti dall'attrice Stefania Carlesso. L'occasione verrà anche presentato il libro che raccoglie i migliori racconti del concorso 2008. La pubblicazione, curata dalla casa editrice vicentina La Serenissima, si intitola In poche parole, racconti lampo, in omaggio all'edizione del festival il cui tema era ispirato alla brevità nella scrittura. Le due opere vincitrici verranno lette e agli autori premiati saranno consegnate alcune copie della pubblicazione. È stato molto interessante, tra l'altro il concorso faceva parte di una serie di altri eventi che per la quarta volta hanno accompagnato Vicenza in questo percorso di approfondimento letterario per gli appassionati. Dunque, per il Cascafè di oggi penso che ci siamo detti tutto, ci ritroveremo al prossimo appuntamento. Grazie a tutti e buon pomeriggio.